L'insegnamento del regno dei cieli. Parte 1, file audio, quarto. Continuiamo, capitolo Le cinque fasi del liberatore. Paragrafo 5. Perché Yeshua prese la terza lettera del nome Yitzhak. L'ultima lettera del nome Mashiach, la lettera Chet, è la terza lettera del nome Yitzhak. Perché non prese la prima lettera come con gli altri nomi? Abbiamo già imparato che la prima lettera di una parola o di un nome è speciale. Ma devi sapere che tutto è qualitativo. Non è necessariamente il fatto che il valore numerico delle lettere rimanenti del nome abbia la stessa gematria, della prima lettera. Ecco qua. Guarda la prima figura mentre leggi questo, quindi ascolta questo. Abbiamo visto che il valore numerico di Yeshua è 386. Più le quattro lettere 390. Il valore numerico totale delle prime lettere degli altri nomi è pure 390. Questo è un fatto che significa che la fase più alta ha in sé tutto quello che è presente nelle altre fasi inferiori. Nel nostro caso riguardante il cli più alto in relazione con i chilim inferiori da Mosè fino a Mashiach. Perché la stessa regola non vale quando contiamo dal basso in alto? Non abbiamo imparato nella scuola elementare che rovesciando le addenti la somma non cambia. Per esempio, 3 più 5 è lo stesso di 5 più 3. Allora, perché il nome Mashiach non è costituito da tutte le prime lettere dei nomi dei Kelim sopra di esso? In un certo senso è il risultato, l'obiettivo dello sviluppo di tutte le quattro fasi superiori. Non sarebbe logico che contenga la parte più utile e alta di quello che li stava sopra, cioè le prime lettere dei Kilim superiori. Abbiamo visto che ha preso la prima lettera di Mosè, la prima lettera di Shimon e la prima lettera di Yeshua. Fino a qui, secondo le regole, ma poi prese la terza lettera del nome Yitzhak. Perché non ha seguito le regole? come noi vogliamo vederlo, perché non ha fatto ciò che ci aspettavamo. In questo si cela un segreto enorme e profondo. Quando rivelo i segreti profondi della Torah, della Kabbalah, sento in me una timidezza interiore. Con questo intendo quando rivelo i segreti a più di una persona. Ma nel libro dello Zohar ho trovato una frase del grande Shimon Bar Yochai. Ogni volta che doveva rivelare un segreto importante della Torah ai suoi devoti discepoli, e sappi che a quel tempo vi erano i più grandi rabbini mai esistiti, iniziava a piangere e diceva: guai a me se lo dico, e guai a me se non lo dico. Quando lo dico, i peccatori avranno l'opportunità di non lavorare su se stessi. Non si correggeranno nelle tre linee. Ma se non lo dico, tutti i miei studenti resteranno ignoranti. Qual è la ragione per cui Mashiach prese la terza lettera di Yitzchak invece della prima? Sii consapevole che nella vera spiritualità vi è una logica divina superiore. Questa non deve essere come la logica che abbiamo qui sulla terra, che chiamiamo buon senso. Al contrario, sono la logica divina è opposta al nostro modo di pensare terreno. È scritto: i miei pensieri non sono i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Ho sbagliato in un libro, in il nostro libro. I miei pensieri non sono i vostri pensieri. Questo è quello che la gente comune chiama matematica ebraica. Vale a dire calcoli, proporzioni, proposizioni, classificazioni e così via, delle quali non si trova soluzione senza conoscenza delle leggi spirituali. Solo basandosi sulla logica, un approccio razionale. Al contrario, questa matematica ebraica, tra parentesi, può dare risultati straordinari. È molto diverso sul suo intelletto, no, è molto diverso dall'approccio religioso o di chi studia meccanica, geometria, cibernetica, eccetera, da chi usa il suo intelletto terreno. Tutti loro imparano un dogma E questo non segue le leggi spirituali. Devi sapere che in spiritualità qualcosa che è qualitativamente superiore può essere inferiore secondo i Sfirot. Ricordalo. Non proiettare la tua comprensione terrena sulla realtà spirituale. Non usare immagini scientifiche e intellettuali, perché quando lo fai ti perdi e la spiritualità si nasconderà alla tua consapevolezza interiore. Ciò che rimarrà è il parlare di Kabbalah, quello che si chiama la filosofia della Kabbalah o la fisica della Kabbalah o la Kabbalah cibernetica, eccetera. Nessuna di queste ti può aiutare, perché sono basate sull'intelletto terreno e cosmico. Prova a capire, e lo so che è molto difficile farlo, ma il cosmo intero, fino al suo punto più basso del materiale, appartiene al nostro mondo. Non c'è immaginazione alcuna che può afferrarlo. In ogni immaginazione si afferra qualcosa di non materiale. E qui ho anche qui sbagliato. In ogni immaginazione si afferra qualcosa di materiale. Questo è corretto. Per molti anni ho insegnato ai miei studenti una regola molto semplice. Quello che Yeshua terreno può vedere non è nulla di divino. Anche qui è sbagliato, la traduzione è sbagliata. Quello che le tue occhi terreni possono vedere non è nulla di divino, eterno o spirituale. Non c'è nulla di divino, eterno o spirituale. Qualunque immagine o oggetto materiale che vedi, non ha niente di spirituale o divino. Senza andare oltre il proprio intelletto e la propria ragione, è difficile d'accettare il tuo intelletto, non può esserne d'accordo. Devi andare oltre la ragione, solo allora puoi sperimentare che è così come dico. Per questo è anche difficile di tradurre le parole della Kabbalah. Andare oltre la ragione si fa solo lavorando individualmente su se stessi. Hai bisogno delle istruzioni, delle leggi spirituali o di implementarle in te stesso o non funzionerà. Non ti aspettare da me parole come relax o rassegnati al tuo destino, perché io non ti darò l'opportunità di fuggire in qualunque immaginazione materiale che desideri avere per vedere la cosiddetta spiritualità. Tra virgolette. Tutte le volte io bastono qualcuno fino a quando si è liberato completamente dalle immagini che aveva sulla sua esistenza terrena. In un certo senso puoi paragonare l'apprendimento del centro di Kabbalah Lurianica al gioco televisivo L'Isola dei Famosi, dove un certo numero di contendenti è sull'isola e a ogni gara il perdente va via. Alla fine solo il vincitore sopravvive. Naturalmente spero che nel nostro studio ci sia più di un vincitore, ma certo che saranno in pochi. È detto, 1.000 studenti iniziano a imparare, entrano nel classe, ma solo uno arriverà alla luce. Anche qui non una, ma uno. Yitzhak è il Kli di Yisod. L'intero aspetto della correzione si basa sulla correzione finale di questo Kli. È il suo innalzamento al Kli Keter. Puoi paragonarlo a un palazzo. Prima che l'architetto inizi il progetto, vuole sapere quanto alto debba essere il palazzo. Quando ne conosce l'altezza, sa pure il nome, pure il numero di piani. E con questa informazione decide di che tipi di fondamenta ha bisogno. Ogni palazzo ha bisogno di informazioni fondamentali. Le fondamenta è l'altezza. Le fondamenta devono essere sufficienti per sostenere l'altezza del palazzo. Questi due aspetti devono andare di pari passo. Lo stesso si vede in spiritualità. L'intera creazione si basa per 6.000 anni, correzioni, sulla sfera Yesod. Nel linguaggio santo Yesod significa fondamenta. Tutti noi abbiamo bisogno di fondamenta, di una base, eccetera. Questo bisogno è la condizione per l'esistenza della creazione. Non è importante che queste fondamenta temporanee provengano dalla seconda restrizione, che in Kabbalah si chiama Tzimtzum Bet. Solamente nel Gmar Tikkun, la correzione finale, Non ci saranno restrizioni. Abbiamo imparato nello Zohar la condizione di Gmar Tikkun è possibile solo grazie alle fondamenta. Durante il 6.000 anni dobbiamo fare restrizioni o non potremo arrivare all'esperienza del Gmar Tikkun. Al livello del Gmartico. Che cosa si intende con restrizioni, con fondamenta, con base? Sappi che con questo ci si riferisce sempre a Yesod. Per essere precisi, Atateret Yesod perciò è cruciale studiarlo molto a fondo. Nel Sacro Zohar è scritto, ed è Rava Menuna Saba, che quota un verso dell'Ecclesiaste. Non permetterò alla mia bocca di portare la mia carne a un peccato. Lo Zohar chiama Yesod Basar Kodesh, la carne sacra, e Brit Kodesh, il patto santo. Che significa? In tutto il mondo non si trova un insegnamento che si riferisce a un luogo nell'essere umano chiamato Yesod. La ragione di questo è perché la santità è data solo a Israele, sia nell'aspetto generale sia in quello particolare. Che ogni essere ha il suo aspetto particolare personale di Israele. Nota che dico ogni essere. Qualunque sia il suo background, ogni essere ha questo aspetto particolare di Israele. Esiste una ragione per cui lo Zohar chiama Yesod la carne santa, o il patto santo. Significa forse che Yesod è il luogo della connessione santa con il Creatore. Osserva quello che ci dice lo Zohar. Prima che una persona apra la bocca per dire qualcosa, incluso ciò che si ha nel cuore, cioè che la bocca non dice, ma il cuore intende, deve fare molta attenzione a non portare il proprio Yesod al peccato. Con questo intendiamo non ricevere per se stesso. Intuitivamente lo capiamo. Ora getta via tutti gli altri pensieri che hai in testa, lascia andare la resistenza interna perché la salvezza è qui. Molti anni fa ho cercato quello che sto per dirti. Nessuna persona, rabbino o guru, o sacerdote lo sapeva. Perciò non potevano aiutarmi. Non potevano dirmi che potevo trovare la risposta nel libro dello Zohar e nei libri dell'Ari e con Yeshua. La mia domanda era come posso purificarmi? Sono Solamente tramite la correzione del Kli Yesod puoi purificarti. E di conseguenza svilupparti e connetterti con il Creatore. Perciò leggi con il più profondo desiderio e concentrazione. Non scrivo come uno scrittore, io parlo. Ascolta. E prova a udire. Questo è scritto nel mio libro. Non scrivo come un scrittore, io parlo. Ascolta e prova a udire. Questa è la via per la salvezza. Solo tramite i Kli Yesod, il tuo Kli Yesod, il tuo Ateret Yesod, e Ateret significa corona, puoi arrivare al Kli Keter, alla consapevolezza del regno dei cieli. Questa sfera è l'unica che ha questa qualità meravigliosa di ascendere tramite la linea di mezzo fino al Kli Keter. Vi è un principio in spiritualità. Nulla scompare nello spirituale. Grazie a questo, ogni volta che Yesod ascende o discende, il suo luogo di base dura per sempre. Quando una persona, che Dio lo perdoni, fa del male con la parola, attrae le forze dell'inferno, Gehinom in ebreo. Il Creatore li creò uno opposto all'altro, ricordalo. C'era un altro modo in cui poteva regnare sulla sua creazione. Vedilo come un feedback del governo superiore sull'essere. Dov'è l'inferno? L'inferno è una condizione entro un essere incoraggiata dall'essere stesso. Come? Rendendo sporca la sua bocca. Quando parla negativamente, maledice, eccetera, attrae il sitra achra le forze impure. Tramite la sua bocca, fa zivuk. E tramite questo, quello che è nella sua testa, nella sua mente, arriva nel corpo. Questo vale sia per le parole negative sia positive. Per favore nota, l'inferno non è qualcosa che esiste solamente quando si muore. È una percezione, una sensazione, una condizione che viene in vita tramite la malalingua, i pensieri e le fantasie adultere. Solamente a causa dei suoi atti una persona sperimenta l'inferno sulla terra. Non fare l'errore di pensare che ci sia un luogo sulla terra chiamato inferno. O al di là. Qui sulla terra esiste la correzione tramite il libero arbitrio. Dopo, nell'aldilà, non c'è alcun libero arbitrio. Lì è determinato inequivocabilmente se si va in paradiso o all'inferno. È impossibile ottenere un bel posto tramite corruzione, eccetera. Non è una questione se ti piace quel posto o un altro. Qui sulla terra hai il libero arbitrio, non al di là. Qui sulla terra hai il libero arbitrio che ci è dato dal Creatore nella sua grande misericordia. Lui li creò uno opposto all'altro per darti l'opportunità del libero arbitrio. Mosè disse: oggi sei di fronte al Creatore. Sarà vita o morte. Scegli la vita. Qui sulla terra abbiamo la scelta. Scelta libera. Sappi che l'alto governo lavora senza difetto, sempre. Tu puoi fare la scelta giusta quando hai la terra di Yesod come tue fondamenta. In ogni condizione, questa è la prima sfera che possa attrarre l'alta luce e passarla oltre, ricevendo al fine di dare. Ora puoi capire perché Yeshua scelse la terza lettera del nome Yitzchak per attirare la nostra attenzione in questo luogo speciale, perché qui sta il collegamento nel nome Yitzchak. Lasciamelo ripetere. Qual è la prima cosa che facciamo nella nostra correzione? Che cosa fai quando cerchi la soluzione, qualunque sia il problema? Rendi il tuo aviut più sottile. L'aviut è la densità di un desiderio. Vai dal quarto stadio al terzo, eccetera, fino a quando sei completamente purificato da tutto l'aviut. E a quel punto puoi portare l'intera condizione, problema a Keter. Quando sei in Keter, si trovi nella condizione di Ibur, embrione, come un embrione nella pancia della sua madre. Ibur significa, questo è abbastanza che ho detto, è l'embrione. Ibur è una condizione di embrione spirituale. L'alto Keter, Yeshua, emana questa forza nel tuo Keter con la luce Nefesh. Di conseguenza tu scendi passo dopo passo al Kli inferiore, il Kli di Chochmah con la luce Ruach, poi al Kli Binah con la luce Neshama, poi il Kli Zeirampin con la luce Chaya, la luce di vita. Yesod chiude se gli rampino. Potresti credere possibili che l'ascensione al cliquetter sia sufficiente. Ma non lo è. È solo un inizio. Quando ascendi, inizi con il cliquetter e la ricezione di Yeshua qui nell'alto Keter. Per questo Yeshua disse: chi è stanco viene a me. Che significa stanco? Stanco dei kilim non corretti. Stanco della viud e del fatto che a causa di esso si resta nell'oscurità. Osserva attentamente. Quando parlo di kilim non corretti, kilim senza luce, parlo della necessità di ascendere prima al cliquetter. Vale a dire, devi ascendere prima al posto più trasparente dei tuoi kilim. Il livello del parzuf è quello di Malchut. A causa della relazione inversa tra i kilim e la luce. Quando hai corretto il kli chokhmah, hai la luce ruach. Questo livello di Parzuf è superiore al livello di Zeir Anpin. E quando correggi il Kli Binah, hai la luce Neshama, che è il livello di Binah. Quando correggi il Kli Zeir Anpin fino a Yesod, attraendo la luce Chaya, allora vi è lo splendore della luce Chokhmah. E il Parzuf arriva al livello di Chokhmah. E quando il Kli Malchut è corretto, hai ottenuto il livello di Keter con la luce Yichidah o la luce Keter che riempie questo livello. Questo è un tema che causa molta confusione. Quindi fai attenzione, osserva attentamente. Si parla dei kilim o dei livelli dei parzufim? Quando la luce Chaya arriva nel parzuf, e questo corrisponde alla correzione del Kli Yesod, insieme con questo si manifesta quello che chiamiamo la sensazione di vita. Chaya significa vita, la luce di vita. Solo quando c'è la luce Chaya i Klipot scompaiono dalla tua percezione. I Klipot si aggrappano ai posti dove c'è Chisaron, mancanza. E tramite la correzione del Kli Yesod o Ateret Yesod, spesso questi nomi si confondono, tu arrivi al massimo della tua completezza individuale durante i 6.000 anni della correzione. O 6.000 fasi di correzione sono sufficienti per far sì che i clipotti lascino in pace. A questo punto provi l'esperienza del luogo di Yesod, il luogo di vita vera. quando sei onesto con te stesso, senti profondamente e riconosci questo come il posto del tuo io sono, dove già senti la vera vita. Ma quando vai più in giù, allora provi oscurità, morte. Questo è il lavoro spirituale individuale. Correggere tutti i desideri che hai fino al luogo della terra ti esod, poi hai finito. Questo sarà il tuo Gmartikun, la tua correzione finale, individuale. O in altre parole, qualunque cosa accada a te o attorno a te, ti trovi sempre in unità con il Creatore e vivi la vita in pieno. Non ci saranno più distrazioni grazie al tuo attaccamento all'alta luce. Ma prima di ottenere questo, vi è un ordine nel lavoro che deve essere compiuto in ogni correzione. La prima cosa da fare è rendere la viyut dei tuoi kilim più sottili. E questo può essere ottenuto tramite l'ascesa di Yesod al Kli Keter. L'ascesa di forza di Yesod al Kli Keter. O in altre parole, tramite la tua connessione con l'altro Keter Yeshua. Ne consegue una discesa graduale da Keter fino alla tua destinazione finale. Il posto di Yesod o il Kli di Yitzhak. E con questo arriva l'attrazione dell'alta luce Chaya in Yesod. Ma la viyut dei Kirim continua a esistere. Tu hai solo più consapevolezza per rendere il tuo desiderio più sottile. Ma devi sapere che la pesantezza resta. Si dice in Kabbalah, niente scompare in spiritualità. Quando discendi dal Kli Keter, al Kli Chochmah hai forza sufficiente per provare la viyut del Kli Chochmah, quindi puoi renderlo più trasparente fino a quando arrivi al Kli Yesod e la Teret Yesod. Lo Zohar ci spiega che Yesod è l'albero della vita. È il fondamento. È dell'albero della vita. All'interno dell'essere umano, Yesod appartiene all'albero della vita, alle radici dell'albero della vita. È il punto più basso. Ateret Yesod è la radice dell'albero del bene e del male. Ateret Yesod è l'albero del bene e del male all'interno dell'essere umano. È Ateret Yesod che compie tutte le necessarie limitazioni e ascensioni di Man, delle preghiere, durante questo periodo di 6.000 anni, la fase della correzione. Ora puoi capire perché il Sod sia così importante e richieda così tante attenzione. Nota che non possiamo correggere tutto quello che puoi correggere. Correggilo. E quello che resta si chiama Lev HaEver, il cuore di pietra. Ed è impossibile correggerlo fino al Gmar Tikkun generale.